Benvenuti a SciSummary Summary Podcast. Oggi abbiamo un argomento affascinante da discutere: l'integrazione dei dispositivi di proiezione digitale nella didattica e come questo si allinea alle teorie pedagogiche e neurobiologiche contemporanee. Per iniziare, puoi darci una panoramica di quali sono le basi teoriche su cui si fonda questo utilizzo? Certo, la base principale è fornita dal costruttivismo sociale di Vygotsky, che suggerisce che l'apprendimento avvenga attraverso l'interazione sociale e la zona di sviluppo prossimale, cioè il gap tra ciò che un allievo può fare da solo e ciò che può fare con l'aiuto di qualcuno più esperto. È un concetto molto potente che sottolinea l'importanza della collaborazione tra studenti. Mi sembra interessante. Come si collega questa teoria ai metodi più pratici, come il scaffolding di Brunner? Ottima domanda. Il scaffolding è un metodo di supporto progressivo che consente agli studenti di raggiungere obiettivi altrimenti inaccessibili. Questo approccio fornisce una struttura temporanea, simile a come una scala aiuta qualcuno a raggiungere un piano superiore. Man mano che gli studenti acquisiscono maggiore competenza, il supporto può essere ridotto. E tornando agli elementi fondamentali dell'apprendimento attivo, quali sono i pilastri su cui si basa? L'apprendimento attivo si fonda su tre elementi principali: informazione e idee, esperienza diretta e dialogo riflessivo. Gli studenti non possono semplicemente ricevere passivamente informazioni, devono interagire con esse, metterle in discussione e riflettere sulle loro esperienze. È interessante notare che queste idee ritornano anche al filosofo John Dewey e al suo concetto di learning by doing. In che modo questo approccio è stato influenzato dalle recenti esperienze come la pandemia? La pandemia ha accelerato l'adozione di metodologie innovative, come il project-based learning e la flipped classroom. Queste tecniche puntano a coinvolgere attivamente gli studenti e la didattica digitale ha reso tutto più accessibile, consentendo un'interazione continua nonostante le restrizioni. E i dati. Quante persone hanno effettivamente notato miglioramenti con queste nuove metodologie? Ottima osservazione. Ricerche recenti mostrano che l'86,5% dei docenti ha osservato un significativo miglioramento rispetto alla didattica tradizionale. La possibilità di utilizzare LIM, lavagne interattive multimediali, ha favorito interazioni più dinamiche in aula. Sembra che ci sia stata un'ottima evoluzione. E per quanto riguarda la formazione per i docenti sull'uso di queste tecnologie? Sì, ci sono diversi percorsi formativi pubblici e privati, riconosciuti dal MIUR, che offrono certificazioni utili. Questi corsi, che abbondano di esempi pratici e metodologie didattiche, consentono ai docenti di affinare le proprie competenze e migliorare la loro pratica in classe. E come funziona il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento, noto anche come SOFIA? SOFIA è la piattaforma ufficiale dove i docenti possono cercare corsi accreditati, scegliere tra varie offerte formative e dalle scuole accreditate. È un ottimo modo per rimanere aggiornati e integrare le competenze tecniche richieste nel moderno ambiente educativo. E parlando di aggiornamento, abbiamo anche la piattaforma Scuola Futura, che offre formazione su questi nuovi strumenti. Esattamente. Scuola Futura, nell'ambito del PNRR, è un'iniziativa che mira a sostenere la transizione digitale, offrendo percorsi formativi su tecnologie digitali e metodologie innovative, addirittura includendo temi come l'intelligenza artificiale. Che potente combinazione! E per quanto riguarda le collaborazioni istituzionali, come hanno contribuito? Partnership come quella tra Regione Lombardia e Indire hanno creato modelli innovativi per la didattica digitale integrata, sviluppando piattaforme con strumenti per docenti e studenti, come video lezioni, webinar e tutorial. Insomma, tutto ciò che abbiamo discusso finora porta a una conclusione piuttosto chiara. L'integrazione dei dispositivi digitali non è solamente una novità, ma un passo fondamentale verso un modo di insegnare più interattivo e partecipativo. Esattamente. La mediazione tra teoria e pratica dimostra che la tecnologia può davvero supportare la trasformazione pedagogica, centrando l'azione sull'apprendimento attivo degli studenti. Grazie per questa ricerca chiarificatrice. Non vediamo l'ora di approfondire altri temi interessanti nei prossimi episodi. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo SciSummary Podcast.